Dico sempre agli amici cattolici, noi abbiamo, dico, state attenti, voi siete a volte più materialisti dei laici, Ma è un un materialismo materialismo scatenato. volgare, Ma materialismo assolutamente. volgare, perché andate lì a vedere allora, qui, eccetera, Allora, la eccetera. cosa biochimica La tanto è cosa fatta tutto. biochimica, qual è il momento esatto in cui, eccetera. No, dico, ma guardate, si potranno anche clonare gli individui, ma quella che non è clonabile è la biografia di ciascuno, non la nostra biologia, la nostra E vita. in questo, credimi, una piccola invasione che faccio. Credo che tu abbia un buon rapporto intellettuale, penso, con Fagioli. Beh, Beh, siamo. no, ma Mi sono confrontato perché con. quello che tu hai detto adesso è la biografia, è l'altra, è una cosa che indubbiamente in Fagioli è molto ossessivamente presente quasi, no? Sì. Cioè nel senso che il Natale si nasce nel momento in cui la possibilità anche sociale, dialogica, Esatto. è davvero. No, ma quello Sì. trovo che sia uno spunto interessante, poi Massimo Fagioli ha le sue ossessioni, le sue autoreferenzialità. Io ho accettato di dibattere con lui perché io ritengo che sia perniciosa l'attitudine intellettuale, che si fonda sul pregiudizio. E ritengo che poi Massimo, in qualche modo, Massimo Fagioli abbia anche una notevole onestà nel mettersi in campo e certamente, diciamo, questo tema, che è un tema del mio modo di far filosofia da molti anni, si è incrociato con il suo. Lui lo vede addirittura dal momento in cui Vedi la luce, vedi la luce la serena la luce. e c'è una reattività emotiva. Certo. Ma io dico sempre che in questo, diciamo, che tutto sommato vi è anche la possibilità, come dire, di allargare il discorso sulla biografia non soltanto agli esseri Ma anche umani, intrauterina, perché anche intrauterina, certo, il momento ho intrauterino. l'impressione che alcune cose importanti accadono se si comincia a Certo, riconoscere la voce della madre, del certo, padre, certo. i E rumori ed altro. quindi noi siamo segnati anche da fattori biografici contingenti. Ma questa contingenza effettivamente ci rende ciò che effettivamente siamo, come delle singolarità non Certo. riproducibili, E storiche. storiche, e io penso, E quindi naturali. e penso a, sì, esattamente, quindi io penso anche che l'umanità verso cui noi ci dobbiamo muovere, ma naturalmente siamo per ora, diciamo, profeti in patria non sempre molto ascoltati, è un'umanità che dovrebbe essere fatta in prospettiva da singolarità, di individui, donne, uomini concreti, che una volta emancipati dai ricatti dello sfruttamento e dai ricatti del potere e del dominio, si possano muovere liberamente, confliggere liberamente come delle singolarità puramente e semplicemente storiche.